da parte della biblioteca provinciale della Università di Bolzano. È una biblioteca migrante ultimamente, perché in attesa del polo ci spostiamo per la città, e ringraziamo questa sera di nuovo il Centro Trevi che ci ospita per alcune iniziative. Siamo particolarmente contenti di poter presentare questa sera Maurizio Ferrandi con il suo libro e in compagnia di Carlo Romeo. Maurizio Ferrandi è stato redattore della RAI di Bolzano, Carlo Romeo è uno storico e insegnante presso il liceo Francesco Carducci, nonché membro dell'associazione Storia Regione, Vicite e Regioni. La biblioteca provinciale ha questa vocazione di occuparsi del territorio, quindi siamo sempre contenti quando veniamo a sapere, ci viene proposto, come è il caso del libro appunto di Maurizio Ferrandi, di presentare un nuovo volume, un volume di storia interessante perché parte dall'inizio del Novecento, quindi copre una parte, un periodo forse non ancora noto, conosciuto, e che riguarda il nostro territorio. Quindi una storia sempre molto delicata, raccontare anche in maniera decisa, sì, però insomma con tante sfumature. E siamo sempre contenti di avere anche delle occasioni di incontro con l'autore, con gli storici, perché il pubblico poi possa avere anche delle occasioni di riflessione e la voglia anche di leggere, perché questo poi alla fine è il nostro intento, quello di fornirvi sempre, di sollecitare la curiosità, l'interesse, e poi di avere delle persone che tornano anche in biblioteca, utilizzino i nostri libri, i libri che scrivete voi, i libri che noi cataloghiamo e mettiamo a disposizione di tutto il pubblico. Vi cedo subito la parola, vi ringrazio ancora per questa splendida occasione e una buona serata a tutti quanti voi. Grazie. Okay. Benissimo, allora io sarò breve per lasciare posto all'autore. Io ho letto diciamo il libro quando era ancora, come dire, su file, e ho detto subito sì a una prefazione a scatola chiusa, nel senso che in un certo senso lo conoscevo già, conoscevo questo autore come un autore non solo di lettura bella e piacevole, ma anche storicamente interessante. Questo è un libro non accademico, è meglio per certi versi, perché può stare su un comodino in modo più semplice rispetto a quei tomi molto complicati, pieni di note, riferimenti, ma che si basa su una letteratura storica solida e soprattutto particolare. Il tema è il rapporto di Mussolini con l'Alto Adige. Per cui, come dire, questo è il filo rosso che passa lungo tutte queste pagine, e molto spesso la storia, la ricerca storica non è che giunga ad illuminare più di tanto certi aspetti. Ecco che lì ci vogliono anche letture psicologiche, ci vuole la capacità di saltare, come dire, da un piano all'altro, e credo che questo libro porti delle prospettive nuove, proprio perché sa mettere in dialogo alcune cose dimenticate, riscoperte. E io ho paragonato, ecco, le pagine del libro come ai treni. È un libro fatto di viaggi, insomma, praticamente dalla prima pagina all'ultima si descrivono i treni di Mussolini che passano o si fermano in Alto Adige. Da quello che porta un socialista quasi anarchico, rivoluzionario, lo porta a Trento nel 1909, fino a quei convogli imperiali che porteranno l'ormai duce agli incontri con l'altro alleato dell'asse. Ecco, e direi che ci sono tantissimi punti interessanti, io ne prendo solo alcuni. Intanto il periodo trentino di Mussolini, ecco, la questione è quanto questa esperienza trentina abbia influito, abbia influenzato il pensiero di Mussolini. Mussolini arriva da socialista, da antimilitarista e internazionalista, e si trova a confronto con una realtà dove la questione nazionale è molto forte, per cui è una cosa indubbia che l'esperienza trentina, per vedere quindi come sul campo insomma sia difficile far dialogare, mettere insieme le nazionalità, sicuramente è stato uno degli elementi che è entrato nella sua elaborazione. E ad esempio mi pare importante che in questo libro venga data molta importanza al rapporto che si instaura da subito tra il Tolomei, la figura chiave dell'italianizzazione, e Mussolini. Cioè Mussolini preferisce far correggere, come dire, alcuni capitoli del suo libro, del libro che pubblicherà sull'esperienza trentina, a Tolomei piuttosto che a Battisti, al compagno, al socialista. E questo è spiegato molto bene e mostra anche certi risvolti, diciamo, sottili, che indagano proprio nella psicologia dei due personaggi. Tra Mussolini e Tolomei si instaura un rapporto strano, cioè nel senso che si vedranno, si scontreranno. Mussolini gli darà degli appellativi non gentili, la suocera lo chiamerà quando Tolomei scende dall'Alto Adige a Roma per reclamare: non si è fatto ancora questo, bisogna fare questo. Ma tutto sommato entrambi si avvantaggiano dell'altro. In fondo Tolomei, grazie a Mussolini, riuscirà a mettere in atto le sue teorie, tutto, come dire, quel programma che lui aveva già elaborato per italianizzare questa terra, e Mussolini prenderà da Tolomei i materiali, cioè tutto quello che Tolomei aveva preparato come motivi ideologici, retorici e così via. E poi un altro aspetto che nel libro viene fuori molto bene è quale ruolo la questione dell'Alto Adige, dei tedeschi in Alto Adige, abbia svolto nel fascismo dei primi tempi. Ed è un ruolo importante, basti pensare alle spedizioni di Camicie Nere, che hanno una funzione nazionale, cioè la spedizione ad esempio del 22, che precede di poco la marcia su Roma, ha una valenza importante per il fascismo a livello proprio propagandistico e simbolico. Soltanto dopo aver reso saldo il possesso della frontiera, ecco che la rivoluzione del fascio potrà marciare verso il cuore dello Stato. Quindi praticamente l'Alto Adige strettamente connesso al centro. Praticamente soltanto rafforzando le membra alla frontiera si riuscirà a marciare verso il centro. E ecco questo filo, insomma, che lega l'Alto Adige all'intero regime che si instaura, viene colto in tutti i suoi passaggi. Mussolini verrà poche volte in Alto Adige, però questa provincia sarà sempre nella sua mente come un'ossessione. Praticamente Mussolini molto spesso ritiene di avere tutta la competenza necessaria per dettare la politica in Alto Adige, anche sopra l'opinione di funzionari, prefetti e ministri. E questo si vede molto bene negli anni 30, in momenti molto difficili, quando Mussolini è il protettore della piccola Austria e quando poco dopo poco dopo invece si apre all'alleanza con il RAI. Ecco, direi che il momento importantissimo del libro, e infatti è dedicato grande spazio, è proprio sulla questione di questa alleanza. Ecco, l'Alto Adige all'interno del rapporto dell'asse. Diciamo che lì si vedono tutte le contraddizioni, le debolezze anche della politica italiana. Nel 1939, insomma, con questo accordo dell'opzione si tenta di risolvere qualcosa che non è mai stato risolto in profondità, e la debolezza dell'Italia, di Mussolini stesso nei confronti dell'alleato, una strana alleanza infida, un'alleanza, come dire, fatta di diffidenze, dubbi, sospetti, ma insomma si rivela la debolezza proprio nel catastrofico esito. La propaganda del Reich riesce a convincere la maggioranza assoluta ad espatriare, e il libro segue questa parabola fino in fondo, fino al suo punto più basso, e cioè il 43 con l'occupazione, quando questa provincia insieme a Trento e Belluno viene annessa al Reich, anche se non in forma ma in sostanza. E Mussolini si trova ad essere quasi un prigioniero nelle mani dell'alleato, e anche lì l'Alto Adige ritornerà. Interessante che Mussolini chieda a Hitler di poter stabilire la capitale della sua nuova repubblica a Merano, quasi proprio per rivendicare il confine, cosa che non viene data e concessa, ma Merano tornerà tra le ultime possibili mete, nelle ultime ore di Mussolini, quasi come un incubo, quasi come qualcosa che è durato per tutta la vita. Ecco, ma oltre a questo, il libro ha una parte molto interessante sui fantasmi, cioè su ciò che c'è stato dopo. Ed è lì che l'autore ci porta alla cronaca degli anni dopo la fine della guerra e fino alla cronaca del presente, anzi è molto, molto attuale. Mussolini, o meglio il fantasma, compare e scompare nei monumenti, bassorilievi, nelle polemiche, nelle contrapposizioni etniche di una terra dove sembra, no, che il passato non passi mai. Ecco, quindi un libro molto bello, piacevole, e quindi sono contento di averlo presentato. Prego. Io ho una voce abbastanza sonora, mi sentite lo stesso senza microfono? Se no prendo il microfono, Allora, per prima cosa facciamo partire questo aggeggio qua. Buonasera a tutti e grazie a voi tutti di essere venuti qui questa sera. Grazie a chi ci ospita, alla Biblioteca Claudia Augusta, che svolge un ruolo fondamentale in questo genere di cose e in tante altre cose, e mi piace dirlo in un periodo nel quale c'è parecchia gente che va in giro a dire che le biblioteche non servono più a niente. Grazie all'editore che ha avuto fiducia in me e al suo staff, grazie a Carlo Romeo, che è uno storico lui, io non lo sono. Io sono uno che racconta storie diverse. Lui è uno storico e ha avuto la pazienza di leggere il mio libro e mi ha dato una sicurezza enorme. Tutti gli errori che ci sono dentro sono colpa sua, tutti quelli che non ci trovate sono merito. Allora, grazie ancora ad alcuni colleghi che mi hanno aiutato. Bene. Ho detto che sono uno che racconta storie, questo libro racconta una storia, è una storia che comincia, ecco, la fotografia è un po' sgranata, è un caso, comincia dall'inizio la storia. La storia comincia il 27 aprile 1945. Su quel camion c'è Benito Mussolini. Benito Mussolini, travestito da soldato tedesco, mascherato, con gli occhiali, con l'elmetto, sta sparando. L'ultima fase della sua fuga durerà pochissimo. Quando questo camion viene fotografato, pochi minuti dopo verrà fermato sulla piazza di Lungo e i partigiani arresteranno Mussolini. Gli restano meno di 24 ore da vivere. Questo camion è diretto, l'ha premesso Carlone, è diretto a Mera. Ora, io racconto una storia, però è una storia basata sui fatti. L'unico piccolo pensiero non provato che io mi sono permesso è questo: in quei minuti, schiacciato sul fondo di questo camion, Mussolini, quando sa di essere diretto a Merano, un viaggio impossibile in quelle condizioni, siamo il 27 aprile del 45, pensateci, Milano è già caduta, gli alleati stanno occupando l'Italia del Nord da tutte le parti, i partigiani sciamano con i vecchi originali e con i nuovi dell'ultimo minuto, sciamano ovunque, il camion non arriverà a Merano, non ci arriva Mussolini, ma non ci arrivano neanche i tedeschi della Wehrmacht e della Luftwaffe che sono... Però può darsi che Mussolini in quei minuti abbia pensato a un altro viaggio a Merano. A un altro viaggio a Merano venuto quasi 40 anni prima. Quello di un altro Mussolini, di un giovane Mussolini in un altro a Merano. Non era il Merano della guerra, era il Merano del 1909, era il Merano dell'imperatrice Sisi, anche se l'imperatrice non c'è più, era il Merano del grande turismo internazionale. E anche la Merano, però, di un accanito, durissimo scontro sindacale. I padroni degli alberghi si sono coalizzati in una sorta di Confindustria ante litteram e hanno tagliato bruscamente i prezzi delle prestazioni artigianali degli operai. Ed è cominciato uno scontro violentissimo, uno scontro che dura da mesi. E Mussolini, che da poche settimane è approdato a Trento, che all'epoca è poco più che uno sconosciuto, è un giovanotto che sta cercando di farsi un nome nel Partito Socialista, è stato espulso dalla Svizzera, ha fatto alcuni tentativi di insegnamento, andati male, arriva a Trento quasi per disperazione e lo mandano, si fa però subito un nome, perché è uno che attacca, è uno che non usa mezzi termini, è uno duro, e lo mandano a Merano ad arringare gli operai socialisti. E quindi quella domenica, ma del marzo 1909, succede una cosa che a me, a cui piacciono gli incroci storici, le coincidenze, è bellissima. Mussolini arriva a Merano, fa il suo comizio in una birreria, allora si facevano le birrerie, e c'è un altro politico sindacalista, ma politico cattolico, che quel giorno arriva a Merano e fa anche lui il suo comizio in un'altra birreria. Eccoli qua, un giovane Mussolini e giovane De Gasperi. E al pomeriggio si scontrano con un vero e proprio duello che corrà al Cide De Gasperi e Benito Mussolini in una domenica di marzo a Merano, si scontrano in una specie di faccia a faccia ante litera. Ecco, io trovo interessante che in quella domenica del marzo 1909 a Merano ci siano due personaggi che bene o male hanno fatto la storia d'Italia del Novecento, che si guardano in faccia. Poi leggetelo sul libro, se no, se vi racconto tutto è troppo comodo, no? Ecco, questo è il giovane Mussolini, però in quei mesi non si limita a fare attività sindacale, l'ha detto molto bene, meglio di me, Carlo, studia la questione nazionale e scrive, non subito, scrive dopo, quando è già stato espulso. Lui viene espulso nel settembre, non ne combina troppe, l'impero austro-ungarico, l'autorità non ce la fanno più, e forse non ce la fanno neanche più i compagni socialisti, perché insomma il personaggio di quelli incompranti torna in Italia, dove progressivamente acquista sempre più peso. E intanto scrive questo saggio. Il saggio si chiama Il Trentino visto da un socialista. Secondo me il titolo è completamente sbagliato. Bisognerebbe, se lo leggete, De Felice, che è il grande biografo di Mussolini, ha detto che è la cosa migliore mai scritta da Mussolini. È sicuramente, Mussolini era un giornalista, quindi la sua scrittura era la scrittura agile, nervosa, rapida dell'articolo di prima pagina. Qui invece fa un saggio. e il saggio dovrebbe chiamarsi Il Trentino, il, la questione nazionale al confine nord dell'Italia, vista da un socialista. Sì, sicuramente è un socialista, però come ha già detto Romero, adesso non mi dilungo, perché il saggio viene tra l'altro pubblicato come allegato alla voce di Giuseppe Prezzolini, che ed è lui poi che ci racconta questi particolari sul rapporto tra Mussolini e Tornio. Cosa possiamo dire? Che Mussolini è già il Mussolini del fascismo? No. Però forse il giudizio di De Felice, secondo il quale non è vero niente che Mussolini anticipava già allora le tendenze, forse andrebbe un attimo rivisto guardando, leggendo con più attenzione questo saggio. Ma andiamo avanti. Qua Mussolini poi, io dico nel libro, che cambia pelle. Mussolini passa dal socialismo all'interventismo democratico. Dall'interventismo democratico, che era quello che raggruppava tutta una serie di personaggi, passerà tra le fila del nazionalismo e della destra italiana. E guardate che anche lì, guarda caso, il passaggio avviene proprio in un avvenimento che è un comizio a Milano di un altro esponente dell'interventismo democratico, Leonida Bissolati, che aveva seguito lo stesso percorso più o meno di Mussolini, ma che dopo la guerra dice bisogna limitare le nostre richieste, non possiamo diventare imperialisti, non possiamo cedere al nazionalismo, e Mussolini e gli altri lo contestano duramente. Gli altri peraltro sono i futuristi, sono dosi di futuri fascisti, lo contestano drasticamente. Bissolati smette di parlare, abbandona i fogli e se ne va, ma lo contestano quando parla del confine del Trentino. Andiamo avanti, ci sono tanti altri episodi, Romeo ne ha citato quello del 22. Mussolini viene a Bolzano, manda i suoi uomini a Bolzano a fare la prova della marcia su Roma, a vedere se riesce a scardinare l'autorità dello Stato. Mussolini nel 21 entra alla Camera, è la sua prima elezione, il suo primo discorso è dedicato quasi interamente all'Alto Adige. Quindi vedete che questa cosa ritorna, questo rapporto, e poi c'è ovviamente il Mussolini, appunto il Mussolini gladiatore oratorio, il Mussolini che governa l'Alto Adige. Queste sono le squadre che marciano su Bolzano e attraverso Bolzano, e quello del 22, guardate, è un passaggio molto importante, al di là di quello che è successo qui, proprio che rappresenta la resa dello Stato. Mussolini sa a quel punto che può tranquillamente andare avanti, e difatti 25 giorni dopo prende il potere. Eccolo qua, questo è Ettore Tolomei, abbiamo parlato, ne ha parlato, è l'uomo che Mussolini usa come babau, come spauracchio, per far capire qui alla gente, ai sudtirolesi, agli abitanti di lingua tedesca, che non c'è più tempo di scherzare, che basta con le dilazioni, con le cose, che è arrivato il momento di mettersi tutti tranquilli e di accettare il programma di italianizzazione. Ora la cosa è complessa, qui non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio. Secondo me, per come la vedo io, per come l'ho letta, la conoscenza precisa che Mussolini aveva della situazione gli impediva di pensare di poter italianizzare i sudtirolesi. Si sarebbe accontentato di italianizzare il Sudtirolo, che è cosa lievemente diversa, che non prevedeva il cambio di teste, prevedeva un maquillage e forse un progressivo ammorbidimento della situazione attraverso l'educazione dei giovani. Le cose non vanno molto come Mussolini voleva, e nel 27 il primo passaggio chiave è quello della creazione della provincia di Bolzano. Poi vengono gli anni nei quali si procede in maniera ancora più drastica con l'italianizzazione, che è una cosa diversa, con l'afflusso sempre maggiore di italiani. Nel libro sono un po' raccontate queste storie, e poi si arriva all'apoteosi. Qua c'è il primo passaggio di quelle che io chiamo le stelle alpine. Le stelle alpine sono un fatto del 1935. Ecco, Mussolini e il fascismo sono all'apice del potere. Mussolini sta per scatenare la guerra di Etiopia, arriva a Bolzano per una lunga visita, non era mai venuto a Bolzano, non era mai più tornato, non aveva mai voluto venire. viene in occasione delle manovre dell'esercito e insomma e arriva il momento in cui arriva in città. Popolo convenuto dal mio amico della provincia, Volcano ma Paolo Peduce, tra una vita folla chiamante, ma si fatta più nati dei marciapiedi, sulle porte alle centre, il Duce, dopo aver reso omaggio al movimento dei caduti, che spinta dal bianco marco le tre civili martiri battisti, pietra e pizzi, ma visita la città delle opere del Cimento. Dell'apoteosi, no? Abbiamo detto. È il momento nel quale alla partenza dei ragazzini consegnano al Duce 6.000 stelle alpine raccolte sulle montagne. Non c'erano evidentemente le associazioni ecologiste. Figuratevi noi. E però è il momento nel quale, siamo nel 35, abbiamo detto, il problema del vicino a nord sta cominciando a manifestarsi e sarà quello che dominerà anche in parte, perché la politica procede, nasce la zona industriale, gli italiani cominciano ad arrivare a far massa critica dopo anni nei quali la popolazione italiana era formata soprattutto dai dipendenti pubblici che andavano e venivano. Gli italiani cominciano a venire a fermarsi, però nel contempo c'è il problema del rapporto con questo signore, che è un rapporto, lo storico Carlo Romeo l'ha detto, è un rapporto ambivalente, ambiguo, è un rapporto di fascinazione e di repulsione al tempo stesso, di attrazione assoluta e anche di paura. E questo rapporto qui, io ho detto un po' una battuta, è il patto d'acciaio, il famoso patto d'acciaio tra Austria e Germania. L'acciaio è anche un po' quello delle traversine ferroviarie, perché qua la politica si fa sui treni, signori. Questi non volavano, non gli piaceva evidentemente. Mussolini era un pilota d'aereo, però per andare qua e là preferivano il treno, evidentemente era considerato più sicuro, meno più comodo forse. E qua si fa la politica. Pensate, da questa linea ferroviaria, che poi qua dietro passa Hitler nel 38, questo viaggio trionfale a Roma. Anche lì c'è un bellissimo documentario Luce che chiunque abbia il computer può vedere, è interessantissimo, quando viene accolto al Brennero dal duca Emanuele Filiberto di Savoia, quando passa alla stazione di Bolzano, questo Hitler, il famoso viaggio a Roma di Hitler. Ma poi c'è Mussolini che va in Germania, e tutte le volte il treno non è solamente un mezzo di trasporto, è una specie di Palazzo Venezia su ruote, perché si affacciano, lui ma anche Hitler si affacciano, tengono discorsi, stringono mani, vengono acclamati da folle osannanti, non si sa quanto spontanee e quanto organizzate. E poi ci sono gli incontri del Brennero, quattro incontri a partire dal 1939. Il Brennero è lo scenario in cui si gioca in parte la politica europea, ed è bello seguire come questi incontri vengono presentati. Il primo, quando c'è il primo, l'Italia è ancora neutrale, la Germania è già in guerra, è un'apoteosi organizzata con un apparato stampa incredibile. Gli altri, man mano, poi l'Italia, anche l'Italia in guerra, sono sempre meno pubblicizzati, mai più pubblicizzati prima, sempre dopo, quasi semiclandestini. I treni viaggiano di notte, preceduti e seguiti dalle vagoni con le mitragliere antiaeree, e il clima diventa sempre più cupo. Poi ci sono altri treni che passeranno di qua, sono quelli che portano Mussolini, il Mussolini della Repubblica Sociale Italiana e i suoi incontri con Hitler in Germania, e quelli sono treni particolari, perché al Duce non è nemmeno permesso di affacciarsi quando passano per l'Alto Adige. Ecco, questa è una fotografia falsa, forse, le opzioni come una sorta di scampagnata. Le opzioni sono uno dei passaggi chiave. Anche qui la difficile alleanza, l'alleanza fatta più di diffidenze, più di cose non dette. Hitler che non dice a Mussolini di voler invadere la Russia, Mussolini che non gli dice che sta per invadere la Grecia, insomma una cosa fatta più di menzogne che di verità. E le opzioni sono uno dei capitoli di questa storia più drammatici, ma che dimostrano come poi l'Alto Adige continui ad essere un elemento chiaro. E poi. Ecco, questo è già l'ultimo Mussolini, quello che è stato liberato sul Gran Sasso, che, come ha già anticipato Romeo, arriva in Germania, già non si capisce bene se è ospite o prigioniero di Hitler, quale viene a sapere dopo giorni e giorni che ormai tutto quello che l'Italia aveva conquistato con la prima guerra mondiale è praticamente perso, perché con le due zone di operazione delle Prealpi la Germania ha messo le mani su tutto il Trentino Alto Adige, il Bellunese e tutta la costa orientale. E Mussolini fa questo tentativo estremo, dice sì, fatemi fare la capitale. No, gli risponde. E qui la storia dovrebbe finire, no? Perché il 27 aprile del 45, quel viaggio di cui abbiamo parlato all'inizio, dura pochi minuti, e per Mussolini è finita. E invece no. Cioè, doveva finire, il libro doveva finire lì. Poi, tanto che ci lavoravo, vedevo aleggiare questi fantasmi. Ora, la storia con i fantasmi è questa. Lo sappiamo tutti, dai, abbiamo letto i libri gotici, inglesi. I fantasmi si manifestano dove ci sono delle cose che non sono compiute, delle cose che in vita non sono ancora state elaborate bene. Beh, lo stesso avviene per i fantasmi politici. Fantasmi politici si manifestano in una terra che con il proprio passato, la mia opinione ovviamente, non ha fatto i suoi conti, o non li ha fatti completamente, non li ha fatti quasi per nulla. Un po' perché è stretta tra due paesi, l'Austria e l'Italia, che sono quelli che in Europa probabilmente hanno fatto meno i conti con il loro passato, nella storia del Novecento. E un po' perché lo scontro etnico, la guerra, il conflitto, hanno in qualche maniera ha dato una solida giustificazione. Ciascuno si è sentito giustificato nel non fare i conti col proprio passato, perché sarebbe stato come dare agli altri un vantaggio che si riteneva ingiusto. Questo cosa porta? Porta al rischio che si manifestino i fantasmi. Io racconto in questo libro di alcuni fantasmi, fantasmi di un Mussolini che vola verso la Spagna, fantasmi di un Mussolini sepolto a Bressanone, fantasmi, e poi il fantasma più grosso di tutti, ragazzi. Cioè, questo è un bel fantasmone, eh? 2 metri di fantasma in marmo, cioè bello pesante. Cioè, io sono cresciuto, vissuto a Bolzano. Per me era come se non esistesse, non so voi. Come adesso vogliono metterci davanti uno schermo, ma è come se quello schermo, se ci pensiamo, è come se ci fosse sempre stato. Nessuno non lo vede, non l'ha mai visto nessuno. Ecco, io racconto anche un po' la storia di come negli anni 50 questo lavoro, questo bassorilievo, insomma, abbastanza inequivocabile, sia stato poi completato, e come questo completamento, anche quello, racconti una storia di come sia. Quindi il fatto di essere una terra dove il passato non passa mai, perché non sono mica solo questi i fantasmi, sapete, ce ne sono tanti altri. Io ho investigato sul rapporto tra Mussolini e Alto Adige, ma di fantasmi in questa terra ce ne sono parecchi, e sono tutti dovuti al fatto che ancora i conti con il passato non sono stati fatti. Il passato che non è solo fascismo e nazismo. Anche questo va detto, perché è troppo comodo rinchiudere tutto il male possibile e immaginabile nel fascismo e nel nazismo, buttarvi a quelli e ritenerci tutti assolti da tutto. No, i problemi nascono molto prima, quando il fascismo e il nazismo non erano nemmeno in mente dei, nascono dalla metà dell'Ottocento, nascono con lo scontro tra i nazionalismi, nascono con la dura guerra che qui si combatte e i cui effetti si prolungano e vengono, se vogliamo, amplificati enormemente, drammatizzati dal fascismo e dal nazismo. Ma siccome non erano nati col fascismo e col nazismo, né col fascismo e col nazismo non scompaiono, fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. Ecco, queste cose, queste storie ho voluto raccontare in questo libro. Se ci sono delle domande, naturalmente io, lo storico. Allora, io nel libro mi pongo questo problema, no? Anche leggendo, guardando i filmati e leggendo i giornali, purtroppo non ci aiutano molto, perché tutto è puntato, anche le maledizioni, gli obiettivi degli operatori sono sempre puntati su di lui. Anche quando Hitler scende dal Brennero e passa, sarebbe interessante avere dei campi su chi guarda per capire, per esempio, chi c'è ad applaudire. Sicuramente gli italiani che sono venuti a Bolzano, che sono arrivati a Bolzano e che sono lì applaudono, e sono applausi certo organizzati, ma non per questo meno spontanei, perché non è che dobbiamo confondere il fatto che venissero tutti bene reggimentati, le giovani italiane in camicia bianca e balilla, col fatto che non fossero. Sicuramente in Alto Adige possiamo pensare che fossero in gran parte. Su quello, ecco, c'è un capitolo del libro in cui mi pongo queste domande e cerco di dare qualche risposta. Sì. Racconto un po' di Patterelli. Certo, è sicuro che tutto il resto ci racconta di un'opposizione sorda, dura, ostinata da parte dei sudtirolesi, che non è mai un'opposizione che si manifesta, per esempio, lo sappiamo, attraverso fatti eclatanti, attraverso atti di guerriglia, ma è un'opposizione sotterranea, dura, clandestina, che però insomma si basa su alcune, su alcuni caposaldi. La Chiesa, per esempio, il mondo cattolico, c'è tutta questa storia della stampa cattolica, cui con il concordato si riesce a ottenere un regime di privilegio del quale qui approfittano in maniera notevole le pubblicazioni di quella casa editrice che oggi è la Tesia. Insomma, il mondo cattolico è un caposaldo, e poi ci sono tutte le organizzazioni, le vecchie organizzazioni pangermaniste con sede a Innsbruck e soprattutto a Monaco, che continuano a operare. Ma giusto, diciamo, un certo elemento di consenso c'era, ad esempio, all'interno delle organizzazioni di partito, scolastiche, cioè in quelle scene c'erano tutte le classi delle scuole della città, diciamo tutte le organizzazioni in cui certamente c'erano anche persone locali e tedesche, questo sì. È interessante, insomma, sulla base di una ricostruzione di storia orale, gli anni 30 sono per i sudtirolesi, per i giovani, insomma, un periodo in cui si vivono due piani contrapposti. Da un lato una dimensione in famiglia, diciamo intima, tedesca. Poi c'è la scuola, c'è l'attività, e quindi c'è anche una dimensione invece pubblica, italiana, per cui, come dire, è proprio è difficile dire quanto ci fosse di consenso. Certamente in queste organizzazioni c'erano anche i sudtirolesi. Io volevo non fare una domanda, ma sottolineare un fatto. Ho visto con molta modestia che hai detto: io racconto storie, non sono storico. Io ho un'opinione diversa, nel senso che ero un giovane cronista nel 59-60, quando alla tua età ho conosciuto il papà di Maurizio, che era un grandissimo giornalista e maestro di giornalismo. Io penso che Maurizio, dal papà, abbia ereditato la passione per la storia e per la ricerca storica, e per sua fortuna forse ne viene anche una certa vena letteraria, perché ho conosciuto tanti colleghi della RAI, però devo dire che veramente sono mosche bianche quelli che scrivono in maniera così discorsiva e accessibile a tutto il pubblico. Questo, come volevo proprio fare un complimento. Poi la gente pensa anche che alla RAI non lavori poco, faccia niente. In realtà non hai mai scritto un libro quando lavoravi. Da quando sei andato in pensione non solo hai scritto questo libro, ma hai anche curato un sito internet, e io invito quelli presenti e anche a questa voce a leggere, perché ci sono dentro storie di personaggi, e anche a contatto con, non direi tanto, oltre alla ricerca storica c'è anche molta ironia, ci sono un sacco di aneddoti simpaticissimi sul mondo altoatesino. Comunque questa sera c'è fatto sotto una certa luce di vivere 100 anni di storia dal primo Novecento ai giorni nostri. Io il libro non ho ancora letto, ho letto solo tutto doppiato l'articolo, che il brano che è stato estrapolato oggi sulla tua Adige, e mi ha colpito un episodio che non conoscevo assolutamente, quello che tu hai citato all'inizio, e questo doppio comizio De Gasperi Mussolini, e scrivi anche che nessun giornale allora lo ha citato, nessuno ha ricordato, sui giornali sono scritte tutte altre storie. Ecco, vorrei sapere, per curiosità, come hai scoperto questa. Ma no, niente, guarda, qui non, in questo libro premetto una cosa, cioè anche la storia di Tolomei e di Battisti e di Prezzolini non c'è niente di nuovissimo, sia chiaro. Io non andare a cercare le cose nuove, bisogna andare a scavare negli archivi, cosa che io di regola non faccio. Mi sono imbattuto, leggendo il libro, in un accenno a questa cosa, sono stato incuriosito, sono andato E la cosa è, ne parla De Felice, ne parlano diversi personaggi, molto così en passant, dice, si incontrò anche con De Gasperi, ne parlano i biografi di De Gasperi. L'unico che raccontò la storia fu il giornale socialista di Trento, che raccontò questa storia perché la stampa meranese, che era una stampa ovviamente allora di sola lingua tedesca, si occupava di tutt'altro, della creazione di una sola scuola media e di cose e quindi io credo che sia interessante anche l'idea di questo scontro all'OK Corral fra i due in una birreria, però ecco, soprattutto è interessante vedere come questa terra da sempre sia un posto dove succedono parecchie cose e che anche allora fosse già al centro di attenzioni e di riflessioni da parte di personaggi che poi hanno fatto la storia, insomma. Io avrei due domande. La prima è questa: Mussolini sapeva il tedesco? Perché lei ha detto che all'inizio è arrivato a Merano, no? Però che Mussolini sapeva il tedesco? Risposta subito. C'è un capitolo che si intitola Il patentino del duce. È lì e sono attraverso testimonianze. Comunque, siccome non voglio sembrare quello che le vuole far comprare il libro a tutti i costi, le dirò che sì, Mussolini sapeva il tedesco, però non lo sapeva perfettamente. Ecco, se vuole saperne di più. Il che ha comportato alcuni problemi, comporta ancora alcuni problemi storico-interpretativi sul fatto di quanto capisse quando Hitler gli parlava. No, è vero. E che lui il tedesco, no, guardate che voi ridete, ma cioè, può darsi che ci sia stata una guerra mondiale per queste cose, perché una cosa quando uno mi parla un tedesco io non lo so perfettamente e se quello cerca di farsi capire, ma quando Hitler parlava, e questo tutti lo testimoniano, era un'oratoria fluviale, oltretutto molto. Allora Mussolini non voleva far da intendere che non capiva. Allora, avrà capito tutto? Alcuni gerarchi del fascismo, quando le cose hanno cominciato ad andare male, perché prima naturalmente hanno detto ti credo, dice lo va là, quell'altro parla, non capisce niente, dice di sì e poi noi ci ritroviamo. Adesso non banalizziamo troppo le cose, però c'è una... camminando per Bolzano, vedendo Bolzano, l'accordo per sempre tanto da 30 anni, no? È evidente l'impronta che il fascismo, per esempio, nei quartieri nuovi, siamo via Roma, via Tuso, non c'è una città che finita da Bolino, per niente, sì. Che è una cosa che in pratica, a parte l'agrofondino, non ha equivalente in Italia. Esatto. Se la tua capita una città americana, per loro deve essere una città europea, sono i quartieri. Volevo chiedere quanto la concezione dello spazio che genera Bolzano oltre il Dalver è frutto anche di una concezione dello spazio che Mussolini aveva nella propria mente. Cioè, quanto è stata anche immagine della sua concezione? Qual è mai che risponda lui? Più che Mussolini, i grandi architetti a cui era stato dato questo incarico e Piacentini stesso, che ha più forte? Il microfono. Il microfono, sì. Non ho la tua voce. No, intendo dire, viene dato l'incarico di progettare. Prego. La domanda era difficile. I quartieri nuovi della Bolzano nuova seguono una visione ideologica che aveva in mente Mussolini. Allora, ripeto, Piacentini e tutti coloro che vengono incaricati progettano una Bolzano nuova, quindi la Bolzano italiana, moderna, oltre il Talvera, ed è riconoscibile una certa gerarchia, una certa, non so, tipo, si parte dal monumento alla vittoria, che è un po' il cuore di questa città nuova. Ci sono i quartieri del corpo di armata, i quartieri scolastici, i quartieri delle autorità, in pratica, quindi è la testa. Poi dopo si scende, abbiamo il quartiere del tribunale, della casa del partito, e poi lentamente si scende verso le membra, e cioè i quartieri ad esempio dei tecnici, via Torino, eccetera, eccetera, e alla fine, un po' staccato e separato il quartiere operaio, per cui c'era una, come dire, un'idea, una visione, questo sì, poi c'era. La piazza del tribunale, se non sbaglio, l'idea doveva partire, allora solo per ricordare che questa piazza del tribunale doveva partire un bellissimo viale, doveva essere il viale imperiale, esatto. Una parallela di via Druso di oggi, che poi è rimasto infatti, certo. Ingegner Segalla voleva fare una domanda. Ormai i Mussolini, italianizzazione, non ho sentito parlare questa parola, che è forse la roba più importante perché è stata imposta la lingua italiana. Questo è stato proprio una violenza culturale immaginabile che oggi si... Ed è questo il punto vero. Come è stato italiano, con una fama che su due piccioni Mussolini aveva energia sufficiente delle centrali, voleva fare le maniere sulla fine, l'acciaieria e la Monte Cassini, ha importato dal Veneto, dal Rovigo, tutti gli operai, e così ha utilizzato l'energia elettrica, gli operai, e ha italianizzato in questo modo l'Italia. I tedeschi però avevano le catacombe sulle, e questo è stato per me l'errore più grosso e imperdonabile. Oggi ho letto anche a Trento, vogliono imporre lo studio del tedesco in pubblico o dell'inglese, ma questo è un po' di violenza sulla cultura, uno si sente di inglese o tedesco o francese come vuole, ma deve essere obbligato. Ecco, signore? Ah, raccogliamo prima me. Raccogliamone alcune, sì. Volevo parlare di un periodo. 8 settembre, fino a fine guerra, la Corse, Trento e Belluno diventa quasi una parte della Germania. Infatti, non sono più state viste i carabinieri, niente di fuori, certo. Vanno chiuse. E l'unica cosa che rimane è la moneta italiana. Qui siamo ancora in italiano. In Italia se ne fosse tolto anche quella, allora era veramente tutto, eravamo già tedeschi. Ecco, durante quel periodo lì io ho vissuto in provincia e ho visto una cosa che devo raccontare adesso. Con l'arrivo delle truppe tedesche qui l'8 settembre, la popolazione locale applaudiva per le strade, me lo ricordo io, buttavano fiori e tutto. Poi hanno pagato caro tutte queste cose, perché in pochi mesi qui a Bolzano e in provincia non si vedeva più giovani. I tedeschi hanno portato via tutti, li hanno portati tutti i militari, i sudtirolesi fino a una certa età sono spariti tutti, io mi davo piano, non si vedeva più nessuno, i contadini non c'erano più, erano in Russia o in Finlandia, perché poi arrivavano ogni tanto anche in permesso, mi raccontavano, io parlavo con loro, le loro vicitudini, praticamente hanno pagato carissimo il fatto di diventare tedeschi, di applaudire l'esercito di Hitler. E chissà quante migliaia di tedeschi sono morti dalla Germania dal 43 al 45 e anche dopo. Quante migliaia, perché qui mi sembra che la provincia di Bolzano sta un po' dito su questo problema. 10.000, 15.000, forse di più anche, sui tirolesi morti per la Germania, non della guerra. Con Mussolini, io non voglio difendere anzi il paese, non ci sono stati tanti sui tirolesi morti, e per il paese sì, migliaia. Grazie. Signora. C'era la signora? Più che una domanda, io volevo dare una considerazione, se mi è permesso. Io sono nata e vissuta in Alto Adige, sono un po' anziana. Il fatto è che sono nata e vissuta in Alto Adige anche tutti i miei generazioni passata. Queste, io tentavo da adesso, di stasera, di mettere assieme quello che qui sentivo dell'Alto Adige, che possa andare molto più indietro. 1906 è nata mia mamma a Bolzano e poi sono nati 10 fratelli. Quei 10 fratelli fanno esempio a questa storia. I più vecchi, adesso sono tutti morti, tutti a Bolzano, i più vecchi, scuole tedesche, perché c'erano solo tedesche, obbligo. Quindi loro sono cresciuti tedeschi, amicizie tedesche, eccetera. I miei cugini tedeschi che ancora ci sono. Gli altri, è arrivato in scuole italiane d'obbligo e la mentalità che c'era era un pochettino diversa da come l'ho sentita qua e da come mi è stata raccontata e da come l'ho vista. Mia mamma era una tedesca, dei primi sì. Tedesca, non era sempre della famiglia dei trentini, diciamo, però allora obbligo di scuole tedesche. I più giovani, tutti obbligo di scuole con altra mentalità, dovevano vedere di mettere d'accordo in famiglia, non era proprio sempre. Nel 1930 erano poi già, mio padre per esempio è stato un impiegato statale al quale spesso è stato, e anche a me personalmente, vietato di parlare il tedesco, parlare in famiglia il tedesco con la mamma. Le mentalità erano... Poi non mi sembra che così tanti giovani poi dell'Alto Adige, tedeschi, perché continuavano a considerarsi tedeschi, i Dachleiber, sì. Che erano di diversi colori, con gli Auswand, eccetera, sì. I Dachleiber si consideravano tedeschi, certo. A tutti gli effetti. Non mi sembra che sono andati tanti in guerra con Hitler là fuori, qua dei paesi dell'Alto Adige. Ok? Bon. Allora, ci dico una cosa. No, una prima considerazione che mi fa molto piacere, due cose. Innanzitutto il fatto. Ah, va bene. Allora, innanzitutto è già il fatto che stasera c'è parecchia roba in giro per la città, la sala sia bella gremita, e queste cose dimostrano che l'argomento interessa. Adesso, al di là dei giudizi. Non solo su quello che ho scritto io, ma l'argomento interessa. Ecco, sarebbe bello continuare a parlarne in tante occasioni, no? Parlarne, discuterne, scrivere, ragionare, portare le testimonianze come quella della signora, perché, ripeto, sono fatti che sembrano consegnati al passato ma che fanno parte del nostro presente, e solo parlarne e ragionarci insieme forse può aiutare a affrontare. Poi io dico solo una cosa e rispondo, poi passo la parola a Carlo. Per quanto riguarda l'italianizzazione e il rapporto tra Mussolini e Tolomei, io in tempi abbastanza remoti ormai ho scritto una biografia di Ettore Tolomei. Anche la storia di Tolomei è un po' strana, nel senso che in Alto Adige è considerato ancora come una specie di un altro fantasma. Fantasma, tant'è vero che tutte le sue carte che sono state prelevate dai nazisti nel 43, che stanno in Innsbruck nelle sotterranee di museo, gli austriaci lo negano, è verità conclamata, vengono tenute nascoste perché c'è paura ancora. Tolomei è stato molto sopravvalutato da questo punto di vista, è molto sopravvalutato. La politica del fascista in Alto Adige, no, la politica italiana non l'ha fatta Tolomei, l'ha fatta Mussolini, che ha utilizzato Tolomei per un periodo relativamente breve. La politica di italianizzazione che il fascismo ha fatto qui è esattamente la politica di italianizzazione che in quegli anni viene, di italianizzazione, di snazionalizzazione che viene compiuta in mezza Europa. Cioè, smettiamola di considerare l'Alto Adige come l'unico posto al mondo dove succedono le cose, gli eventi unici nella storia. C'è stato solo uno 2000 anni fa in una cabana di Betlemme, e l'unico evento unico, quello che si è fatto in Alto Adige, si faceva un po' ovunque, perché i nazionalisti sono tutti uguali. I nazionalisti non tollerano le zone grigie, o devono essere bianche o nere. Per eliminare il grigio delle zone hanno diversi sistemi: ricoprire, cancellare, anche con sistemi brutali che qui non sono mai stati usati. Sistemi brutali voglio dire genocidio fisico, cioè prendere la gente e ucciderla. Qui si è arrivati al massimo alle opzioni, cioè al tentativo di far emigrare. Quello di imporre, di cancellare le lingue, di cancellare i nomi, di cancellare i cognomi, Quindi il fenomeno anche al cortesino guadagnerebbe molto in chiarezza se venisse confrontato con quello che in quegli anni avveniva in Ungheria, in cosa? E in tante parti d'Europa, per dare un quadro chiaro di come gli stati nazionali hanno cercato di risolvere al loro interno il problema delle minoranze etnico-linguistiche, che è stato sempre o quasi sempre il proposito di cancellarle e marginarle, metterle fuori gioco in quegli anni. Sì, direi che hai detto tutto. Io c'era soltanto un punto in cui forse quando si parlava delle responsabilità, i soldati che muoiono nella guerra sono tra gli 8.000 e i 10.000, insomma i calcoli non sono precisissimi, ma questa scelta che nel 1939 insomma spinge più dell'80% per scegliere il Reich ha motivazioni varie, perché non bisogna dimenticare quello che il fascismo aveva fatto, ovvero è una decisione dura che lacera tutte le famiglie, non è semplice. Certamente c'è stata una responsabilità anche interna alla comunità, ecco, questo per molto tempo si è cercato di un pochino dimenticarlo, no? Il motto era non parliamo di queste cose, è meglio insomma ricoprire, ma io penso che appunto ci fossero responsabilità da tutte e due le parti. E poi altro punto sulla lingua, sì, la scuola ovviamente è il terreno privilegiato dove il nazionalismo si scontra. Già a fine dell'Ottocento diciamo c'è un'ondata di movimenti germanisti insomma che vogliono togliere le zone grigie e allora impongono a volte il tedesco lì dove per tradizione invece c'era o il bilinguismo o addirittura la scuola italiana. La Badia è un caso in cui ci sono raccolte di firme di tutti i parroci della valle, i capifamiglia, che chiedono che non venga tolto l'italiano perché per tradizione era insegnato. Ecco, quindi è tutto questo il contesto che spiega come venga fuori un Tolomei, su cui hai scritto uno dei primi libri complessivi nel lontano 86? 86. Ecco, e quindi come dire c'è una responsabilità grossa e Tolomei certamente ha questo progetto che riesce ad attuare solo in parte, perché Tolomei non è un politico, non vede le conseguenze. Tolomei è un ideologo, ha questa ossessione, questa mania, questo mito privato che lo spinge proprio a considerare questa terra italiana, cioè lui ci credeva proprio che Dio, la provvidenza, abbia messo fra i popoli delle barriere naturali, quindi se l'acqua scende verso sud, ecco lì è Italia e bisogna riportare la veste italiana. Tanto per capirci come funzionava tra Mussolini e Tolomei, quando nel 27 Mussolini istituisce la provincia di Bolzano, lo fa per toglierla dalle mani dei trentini che l'avevano governata. Qui si potrebbe fare un interessante paragone storico tra Mussolini che toglie il controllo dell'Alto Adige ai trentini nel 1927 e il fallimento della prima autonomia, ma vabbè, è meno azzardato di quel che sembra il paragone. Bene, Tolomei che appunto aveva questa ossessione per la geografia come una sorta di ente superiore che plasma la storia, corre a Roma e affronta Mussolini e dice no, non puoi, perché cosa fa Mussolini? Toglie dall'Alto Adige il mandamento di Enya, guardate la Bassa Tesina per capirci, no? E la lascia in mano al Trentino. Beh, è una storia complicata, in sostanza un po' per dare un contentino ai Trentini, un po' perché quella era una zona controversa, contesa, vabbè. Tolomei si precipita e gli dice tu non puoi fare una cosa del genere. Ora, è già il Mussolini bello robusto del 23, il quale non si lascia mica trattare così dall'ultimo che passa, e gli risponde con la risposta classica, perché lui dice: ma no, ma sono le montagne che segnano il confine. E lui dice: il fascismo sposta anche le montagne. E la cosa, ovviamente, quando uno ti risponde così finisce lì. Però questo dimostra che il rapporto era tra delle concezioni diverse. Mussolini ragionava politicamente, e in quel momento gli andava bene di fare la provincia di Bolzano, che non aveva potuto fare nel 22 perché i sudtirolesi l'avevano chiesta dall'annessione in poi, e la destra aveva sempre detto no, provincia unica, vuoi dargliela. Poi però dopo 5 anni capisce che non può far altro, se vuole governare l'Alto Adige non può far altro che toglierlo, togliere questa specie di cosa dei trentini, e quindi anche lì si passa dalla prima alla seconda autonomia, no? E si fa la provincia di Bolzano. Poi arriverà il Mastro Mattei con la zona industriale, con la gestione manageriale della situazione, ecco. Bene, se non c'è altro, ne ringraziamo ancora tutti.